Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Il trasferimento del G8 di luglio dalla Maddalena all'Aquila. Berlusconi incontra il presidente della Sardegna. Un altro G8, quello delle imprese a Cagliari. Il presidente di Confindustria Marcegaglia dice no al protezionismo. L'ingresso dello Stato nelle banche deve essere temporaneo. Un altro G8 ancora, quello dell'ambiente a Siracusa. È stato trovato un accordo sulla biodiversità. Verso il 25 aprile, Napolitano dice, nella Costituzione italiana c'è l'eredità morale della resistenza. Marchione negli Stati Uniti per definire l'accordo con Chrysler. Fiat pronta a lanciare un'offerta anche per Opel. I boss di Gela stavano preparando un attentato contro il sindaco Rosario Crocetta e alcuni imprenditori. A XL il primo cittadino dice, a volte mi fa più paura la politica che la mafia. Un ragazzo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del liceo. È successo in provincia di Frosinone. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E da Simone Spezia. In primo piano la decisione di Silvio Berlusconi di spostare il G8 previsto alla Maddalena dall'8 al 10 luglio all'Aquila. Decisione annunciata ieri a sorpresa dallo stesso Premier. Oggi c'è un incontro a Palazzo Grazioli fra il Presidente del Consiglio e quello della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci. Palazzo Grazioli, che lo ricordiamo, è la residenza romana del Premier. Ci racconta tutto in diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. È ancora in corso il chiarimento qui a Palazzo Grazioli tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci. Occasione ufficiale dell'incontro, l'ufficio di presidenza del Popolo della Libertà, convocato per fare il punto sulle europee, che vede di fatto coinvolti i governatori del PDL. Nel caso di Cappellacci però è la prima occasione per un faccia a faccia dopo la notizia dello spostamento del G8, notizia che per stessa missione di Berlusconi ieri in conferenza stampa all'Aquila non era stata anticipata al numero uno della Regione Sardegna. L'accelerazione impressa dal Premier sul G8 all'Aquila sembra ad oggi al riparo da ripensamenti. Sicuramente la Maddalena, è stato detto, sarà compensata per il cambio di programma. Si è già parlato del summit dedicato all'ambiente che dovrebbe tenersi in autunno e caldeggiato dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Fonti vicine al Presidente Cappellacci tuttavia ancora questa mattina spiegavano che la partita del G8 è ancora aperta. Sarebbero tanti infatti i problemi di natura tecnica ed organizzativa da superare per far svolgere l'evento in Abruzzo. Cappellacci, lo ricordiamo, sta subendo anche forti pressioni da tutti i comuni dell'area coinvolta, che in queste ore parlano di vero e proprio scippo. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Infatti in Sardegna erano state naturalmente già avviate una serie di opere proprio in vista del G8 della Maddalena. E dunque, quanto costerà questo spostamento? Sentiamo. In principio fu la Maddalena, ora è l'Aquila, con un risparmio, secondo il Premier, di 220 milioni di euro, che sarebbero dirottati dall'isola sarda alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma. In realtà, calcolare oggi la differenza di spesa che comporterà lo spostamento della sede del G8 è molto difficile. L'investimento previsto per la Maddalena era stimato in 1 miliardo di euro circa fra investimenti privati e pubblici. Fra le opere iniziate, il complesso dell'arsenale, che avrebbe dovuto comprendere un centro congressi, un hotel a 5 stelle e un media center. L'asta è stata vinta dal gruppo Marcegaglia e il cantiere è aperto. Era previsto anche un restauro del porto e della passeggiata a mare, anche se il cantiere non è stato ancora inaugurato. Di sicuro verranno risparmiati i soldi previsti per il noleggio della nave da crociera Fantasia, 450.000 metri quadrati e 1.650 cabine, che avrebbero dovuto ospitare i leader del mondo. Su quanto si risparmi però non ci sono cifre, perché il costo del noleggio era top secret. Il G8 abruzzese è invece ancora tutta un'ipotesi, soprattutto nei costi. Non è chiaro al momento dove alloggeranno i capi di Stato e di Governo. Si pensa a pernottamenti a Roma nelle ambasciate e trasferimenti all'Aquila in elicottero. Più difficile far alloggiare i leader mondiali e le delegazioni nella caserma Vincenzo Giudice della Guardia di Finanza, 2.500 posti letto incamerate da 4. Ma la vera incognita è il piano sicurezza. Ogni spostamento del presidente americano, ad esempio, comporta preparazioni lunghe e meticolose, che hanno ovviamente anche un costo. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. A proposito di G8, a proposito di Sardegna, passiamo ad un altro G8 che si svolge proprio a Cagliari. È quello delle imprese. Stamattina ha parlato la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. In diretta da Cagliari la nostra inviata Anna Marino. Anna. Sì, Simone, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno a te. Al Summit internazionale degli industriali che si svolge al Torte Village di Pula in Sardegna per il G8 delle imprese, ha aperto i lavori Emma Marcegaglia e ha sottolineato che il mondo degli imprenditori è molto preoccupato su tre grandi questioni: la crisi e le sue implicazioni, l'emergere di comportamenti protezionistici a cui il mondo delle imprese dice no, e su come condividere le decisioni sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il protezionismo, il mondo delle imprese lo rifiuta e le aziende hanno bisogno di un commercio libero e di agire a livello globale. E per quanto riguarda la crisi, si è estesa, ha spiegato Marcegaglia, e da ottobre stiamo subendo una stretta creditizia globale. Le imprese che hanno investito hanno accumulato debiti ingenti e hanno bisogno di prestiti. La crisi ha punito le imprese migliori, ha sottolineato il presidente di Confindustria. Occorre ripristinare la fiducia dei mercati, i flussi creditizi devono tornare alla normalità, no? Quindi alla stretta del credito. E per quanto riguarda la crisi, ha auspicato che ne usciremo, non servono però più regole, ma maggiore cooperazione. È un ambiente favorevole per le aziende. Dice Marcegaglia, noi continueremo a monitorare, a esprimere le nostre istanze, vogliamo vedere però risultati ora, perché ne abbiamo bisogno ora per ora. Da Santa Margherita di Pula è tutto. Grazie alla nostra Anna Marino. Noi ora parliamo di un'azienda italiana che in questi giorni è sotto i riflettori internazionali, ossia la Fiat. In attesa di capire se andrà in porto l'accordo con l'americana Chrysler, il Lingotto sembra pronto a lanciare un'offerta per Opel. In entrambi i casi l'amministratore delegato Marchionne non intende investire liquidità, ma punta a sfruttare le sinergie industriali. In una giornata borsistica positiva, con gli indici che guadagnano più di un punto percentuale, il titolo Fiat è proprio fra i migliori, con un più 3%. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Marchionne è tornato a Detroit? Sì, è a Detroit e sono i giorni decisivi per l'intesa con la Chrysler. Pare che oggi possa essere annunciata forse l'intesa con i sindacati dell'azienda americana, almeno con quelli canadesi, che devono fare delle concessioni in termini di costo del lavoro e di assistenza, in modo da rendere l'azienda, come ha chiesto il governo americano, in grado di resistere nel lungo periodo. In sostanza devono adeguare il costo del lavoro a quello delle concorrenti giapponesi che producono negli Stati Uniti. L'altro grosso scoglio è quello dei creditori della Chrysler, che non accettano una sforbiciata consistente ai loro crediti in cambio di azioni Chrysler. Una loro controproposta dovrebbe arrivare anche questa in questi giorni. Le posizioni sembrano ancora molto lontane, ma il governo americano sicuramente eserciterà tutta la moral suasion possibile per cercare di convincerli e di arrivare quindi a un'intesa con tutte le parti entro la scadenza del 30 aprile, cioè di giovedì prossimo, che a questo punto darebbe il via libera all'intesa tra la stessa Chrysler e la Fiat. Ecco Andrea, la Fiat si sta muovendo anche su un altro fronte, nel senso che sembra pronta a lanciare un'offerta anche per Opel. Se questi due accordi, ossia Chrysler e Opel, dovessero effettivamente andare in porto, il nuovo polo che si verrebbe a creare sarebbe in grado di produrre circa 6 milioni di auto all'anno, che è una cosa considerata importante. Diciamo che numeri si ottengono sommando la produzione delle tre aziende. Ricordiamo peraltro che Chrysler quest'anno dovrebbe produrre molto meno di 2 milioni che faceva fino a qualche tempo fa per la crisi del mercato americano. I problemi sono due. Il primo è che l'obiettivo di Fiat, che è stato ribadito in questi giorni, è di fare questi accordi senza spendere soldi, quindi senza investire almeno inizialmente e senza pagare per le aziende, e questo potrebbe essere possibile se il governo americano da un lato con Chrysler e il governo tedesco soprattutto con Opel daranno una dote finanziaria. Poi bisognerà far funzionare le due intese. Non sarà una cosa facile. Marchionne è molto, sappiamo che è molto convinto dei propri mezzi e anche delle qualità della squadra di manager che ha, però in base anche alla storia delle intese nel settore auto è probabile che ci siano comunque delle difficoltà, cioè non sarà un compito facile, già è difficile mettere insieme due aziende, figuriamoci tre, tanto più che ricordiamo tra Fiat e Opel c'è già stata una collaborazione quando Opel era ancora in condizioni di salute migliori e quando Fiat era alleata con General Motors, c'è stata una collaborazione che ha prodotto qualche frutto positivo ma che non ha lasciato degli umori estremamente positivi soprattutto in campo tedesco. Andrea, brevissimamente, arriva adesso in questo momento una nota positiva dagli Stati Uniti per il settore dell'auto, perché Ford ha chiuso il primo trimestre 2009 con un rosso di 1 miliardo e 400 milioni di dollari che è pari a 75 centesimi per azione, quando gli analisti si aspettavano un rosso di 1,24 dollari per azione. Insomma, una notizia positiva tutto sommato. Beh sì, anche ricordiamo che anche la Fiat è stata ha avuto un rivisto al rialzo da molte banche stamattina, proprio perché i suoi conti di ieri, pur negativi e pur con i conti in rosso, sono stati un po' meno negativi per alcuni aspetti di quello che gli analisti temessero. Forse è vero quello che ha detto Marchionne ieri, cioè che il settore potrebbe aver toccato il fondo e quindi potrebbe essere d'ora in poi il cammino per la ripresa. Grazie Andrea Malan. Noi ora cambiamo decisamente argomento e parliamo di cinema. Sì, cinema ispirato alla contemporaneità, quindi in realtà poi nemmeno così lontano, diciamo, dai discorsi che abbiamo fatto finora sulla crisi, perché molti film parlano delle difficoltà dei giovani nel mondo del lavoro. E questo weekend sono due le pellicole italiane proprio su questo tema. Il primo è stato il film di Paolo Virzì. Il cinema torna ancora una volta a parlare di una generazione con tutta la vita davanti, ma con una vita precaria, e lo fa con due pellicole contemporaneamente sugli schermi. È uscito a Roma e Torino da una settimana, ma da oggi è anche a Milano e in altre città, Fuga dal call center di Federico Rizzo. Vulcanologo. Vulcanologo. È laureato in vulcanologia. Esatto. Un tempo avevamo un servizio militare, la NAI. Oggi un annetto al call center le farà bene, giovanotto. Negli anni 70 si facevano i film sul mondo operaio. È naturale che in questa fase della nostra storia si facciano i film sui precari, dice Federico Rizzo. Il suo progetto indipendente, con budget di circa 500.000 euro, è in parte film e in parte documentario, e nasce anche da un'esperienza personale. Io ho lavorato 3 anni in un call center. Quando apri il giornale trovi scritto o barista referenziato o call center. Io purtroppo barista referenziato non lo ero e quindi sono finito in un call center. Questa è l'unica epoca della storia in cui i figli stanno peggio dei padri, e la nostra risposta qual è? Mangiare sushi? Se molti degli attori di Fuga dal call center sono stati presi proprio tra i giovani lavoratori a contratto, Valentina Lodovini, Carolina Crescentini, Alessandro Tiberi, Francesca Einaudi e Paolo Villaggio sono invece nel cast di Generazione 1000 euro. Girato a Milano e Barcellona, è ispirato al bestseller di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa. Anche qui trentenni, brillanti, talentuosi, con lavori precari e soprattutto un futuro incerto e pochi sogni. Quello che ha colpito il regista Massimo Venier. Di togliere entusiasmo e energia a una generazione che per definizione deve spaccare tutto e costruire, è la cosa che mi ha colpito di più. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16 minuti 55 secondi nella prima parte del GR Extra Large. Abbiamo parlato del trasferimento del G8 di luglio dalla Maddalena all'Aquila. Oggi Berlusconi incontra il presidente della Sardegna. Tra l'altro su questo tema è poco fa arrivato un apprezzamento da parte della Germania, che dice di contare su una buona logistica. Abbiamo parlato di un altro G8, quello delle imprese a Cagliari, con la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che dice no al protezionismo. Abbiamo parlato anche di Fiat, perché Marchionne è tornato negli Stati Uniti per definire l'accordo con Chrysler, mentre Fiat sarebbe pronta a lanciare un'offerta anche per Opel. Adesso parliamo del G8 ambiente, ma prima un'ultima ora. L'ultima ora che arriva dalla provincia dell'Aquila, precisamente da Cagnano a Miterno, dove un uomo è morto travolto dal crollo di un fabbricato che stava demolendo. Si tratta naturalmente delle zone colpite dal terremoto del 6 aprile scorso. Secondo le prime notizie dei vigili del fuoco, l'uomo si trovava in un cementificio dove stava lavorando su un escavatore per demolire appunto un fabbricato. E ora ci colleghiamo con Siracusa. Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Marco, il G8 Ambiente, sappiamo che ha trovato un accordo sulla biodiversità, una sorta di via libera, una cosiddetta carta di Siracusa. Ci puoi confermare, Marco, e darci anche magari qualche contenuto? Sì, il G8 dei ministri dell'Ambiente è aperto a altri 12 paesi del mondo, si è concluso circa 20 minuti fa. In questo momento c'è la conferenza stampa in corso del ministro italiano Stefania Prestigiacomo, che ha parlato giusto appunto, come dicevi, di questa carta di Siracusa sulla biodiversità. In altre parole, ricordarsi che la biodiversità è di per sé stessa una risorsa economica fondamentale. Il ministro Prestigiacomo ha detto che è stata raggiunta anche un'intesa su un documento finale qui dal vertice per quanto riguarda il tema più caldo, ovvero quello della riduzione delle emissioni di carbonio, che però ancora non è disponibile, quindi io non posso giudicare se i suoi contenuti. Ad ogni modo si dà per scontato che non ci sia la tanta attesa descrizione di qualche cifra di riduzione delle emissioni che dovrà essere ottenuta all'importante vertice di Copenaghen di dicembre. Grazie Marco Magrini, collegato con noi da Siracusa. Ora ci spostiamo invece nella Corea del Nord. Sì, perché sono state rinviate a giudizio le due giornaliste americane, una di origine coreana e una di origine cinese, arrestate in Corea del Nord il 17 di marzo. Sono accusate di ingresso illegale nel paese e atti ostili verso il regime. Lanci missilistici, negoziati interrotti e adesso anche processi per spionaggio. La Corea del Nord continua la sua complessa partita con il resto del mondo. L'agenzia di stampa nordcoreana ha infatti reso noto che Euna Lee e Laura Ling, le due giornaliste americane arrestate dalla polizia di Pyongyang il 17 marzo scorso al confine tra Cina e Corea del Nord, verranno processate nei prossimi giorni per aver esercitato attività ostili contro il regime più isolato del mondo. Ed è proprio sulla pelle delle due reporter che potrebbe giocarsi una delle mani più delicate di questo gioco, ricominciato il 5 aprile quando, violando una risoluzione ONU, Pyongyang aveva effettuato un nuovo test missilistico. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha visitato la Corea del Nord ieri per mediare sulla questione nucleare. Le trattative per la liberazione delle due americane proseguono attraverso canali diplomatici scandinavi. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. E a proposito di giornalista in carcere, è in corso l'appello per Roxana Saberi, la reporter iraniana-americana condannata sabato scorso in Iran a 8 anni di carcere per spionaggio. Da alcuni giorni la sua difesa è stata assunta da Shireen Ebadi, avvocato iraniana e Nobel per la pace. E ora ci spostiamo in Pakistan. Si era temuta un'avanzata dei talebani verso Islamabad quando mercoledì gli estremisti islamici avevano conquistato la città di Buner nel nord-ovest del paese, in un distretto che si trova ad un centinaio di chilometri dalla capitale. Oggi l'annuncio da parte di un portavoce che si ritireranno dalla zona entro la giornata. Certo è che comunque la tensione resta alta. E allora, per fare un punto sulla situazione, ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri, esperto appunto di queste zone. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora Alberto, qualcuno accusa il presidente pakistano Zardari di debolezza per aver fatto accordi di tregua con i talebani concedendogli così tanti spazi, per esempio nella provincia di Swat, dove è stata imposta la Sharia, la legge islamica. La tua opinione è che sia così? Cioè c'è una debolezza di Zardari? Ma c'è una debolezza in realtà del Pakistan stesso, perché noi oggi parliamo di avanzata dei talebani, certamente quello che è successo nella valle di Swat e poi a Buner è spettacolare, ma a un'ora d'auto da Islamabad, la capitale pakistana, da anni è in funzione la moschea e scuola religiosa di Akhora Khatak, dove vengono addestrati ogni anno 4.000 studenti taleb sia alla guerriglia, cioè alla jihad, sia ad applicare la Sharia, la legge islamica, e da qui partirono poi le legioni del Mullah Omar per la conquista di Kabul a metà degli anni 90. Cioè la talebanizzazione del Pakistan purtroppo è un fenomeno che dura da qualche anno, che però è diventato rilevante dal punto di vista militare negli ultimi 2 anni, quando i talebani pakistani hanno stretto ancora più forti alleanze con quelli dell'Afghanistan dall'altra parte del confine. Ma è vero che i talebani, appunto pakistani, intendono creare una sorta di stato islamico all'interno dei confini del Pakistan? Qualcuno parla di un tentativo di colpo di stato morbido? Ma in realtà i tentativi di forzare la mano c'erano già stati ai tempi di Musharraf. Ricorderete nel luglio del 2007 i fatti sanguinosi della Moschea Rossa di Islamabad, quando l'esercito intervenne e massacrò gli islamici che si erano asserragliati appunto in questa moschea. Ma in realtà uno stato in qualche modo parallelo a quello del Pakistan esiste già da sempre, che è questa sorta di Pashtunistan, cioè i Pashtun sono l'etnia dominante in questa area e sono dominanti in questa regione tribale, che ha avuto sempre leggi proprie, dove l'autorità dello Stato proprio costituzionalmente non è arrivata se non lateralmente. E dopo la caduta, l'invasione dell'Afghanistan da parte dei sovietici, la guerriglia dei Mujahideen e poi il regime dei talebani, ecco che questa regione ha sempre più acquistato autonomia e si è sempre posta in qualche modo in contrapposizione a uno Stato centrale che per la verità è da sempre molto debole. Alberto, brevemente il ruolo degli Stati Uniti. Militarmente stanno continuando a colpire le montagne del Pakistan, e però dal punto di vista politico? Dal punto di vista politico la situazione è stata tastata con mano proprio da Richard Holbrooke, l'inviato di Obama, che appena entrato in carica supportato dalle autorità pakistane sul Khyber Pass, nel cuore pulsante dei Pashtun e dei talebani. E lì ha ascoltato pazientemente le lamentele dei capi tribali, delle popolazioni locali per le incursioni militari degli americani. È stato lì che Zardari e il suo primo ministro Gilani l'hanno convinto che era necessario in qualche modo fare delle concessioni. Oggi temono, e come temevano in realtà allora, che queste concessioni possano aprire una crepa profonda nel fragile edificio dello Stato pakistano. Grazie Alberto Negri per averci aiutato a capire qualcosa di più di quanto sta accadendo in Pakistan. Noi restiamo all'estero con alcune notizie, Simone. Sì, il premier thailandese innanzitutto, che ha revocato oggi lo stato di emergenza il posto il 12 aprile scorso a Bangkok dopo le violente manifestazioni delle camicie rosse, i manifestanti antigovernativi vicini all'ex premier. Il governo ha comunque precisato che i soldati resteranno dispiegati in alcuni settori della capitale. Rimaniamo in Estremo Oriente. Nelle Filippine, perché purtroppo non si hanno notizie certe sulla sorte di Eugenio Vagni, operatore italiano della Croce Rossa rapito il 15 gennaio scorso. Ieri, lo ricordiamo, si erano diffuse voci sulla sua liberazione durante un'offensiva sferrata dal governo di Manila contro i ribelli islamici del gruppo Abu Sayyaf. Poi però si è saputo che Vagni sarebbe stato ceduto ad un altro gruppo di sequestratori. Oggi la Farnesina, proprio personalmente il ministro Frattini, ha detto che non si ha conferma su questo particolare, cioè sul fatto che Vagni sia stato ceduto. Voltiamo decisamente pagina, sentiamo dove ci porta il nostro gastronauta Davide Paolini per il fine settimana. Per un'eccellente serata, magari se vi trovate a visitare la mostra di Raffaello in quel di Urbino, vi consiglio un ristorante, il San Giacomo di Urbino, in una frazione, appunto, località Pantiere di Urbino, ma a pochissimi chilometri. Il locale è veramente molto bello, direi anche inusuale per il livello dei ristoranti italiani. Anche la cucina sicuramente è di eccellente livello. Un giovane chef, ma sicuramente con alle spalle diverse esperienze, vi introdurrà in alcuni piatti che cambiano di settimana in settimana, quindi non è detto che troverete sempre magari una minestra di ceci molto delicata, oppure del capretto, oppure ancora del rombo chiodato, ma sicuramente ogni volta troverete dei piatti che vale la pena di assaggiare, così pure la carta dei dolci, perché è molto variegata e devo dire soprattutto un semifreddo davvero intrigante. Ecco, chi volesse mangiare il pesce qui può trovare anche sempre delle ottime mazzancolle. Lo ripeto, il ristorante si chiama San Giacomo di Urbino, in località Pantiere di Urbino, a pochi chilometri da questa splendida città. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle notizie della giornata. Il trasferimento del G8 di luglio dalla Maddalena all'Aquila ancora in primo piano, dopo il via libera inglese e la cautela americana, l'ok della Germania. Berlusconi incontra il presidente della Sardegna. E c'è un altro G8, quello delle imprese, oggi a Cagliari. Il presidente di Confindustria Marcegaglia dice no al protezionismo. Verso il 25 aprile parla il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nella Costituzione italiana dice c'è l'eredità morale della resistenza. Il dopo terremoto all'Aquila, un uomo è morto oggi mentre demoliva un edificio pericolante. Sergio Marchion, amministratore delegato di Fiat di nuovo a Detroit per tentare di definire l'accordo con la Chrysler, rimane aperto il fronte Opel. I boss di Gela stavano preparando un attentato contro il sindaco Rosario Crocetta e alcuni imprenditori. Fra poco in XL l'intervista al primo cittadino. Un ragazzo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del liceo. È successo in provincia di Frosinone. L'avete appena sentito dai nostri titoli. La mafia, i boss di Gela stavano preparando un attentato contro il sindaco di Gela, Rosario Crocetta, e anche alcuni imprenditori. La cosa si è scoperta perché questa mattina sono stati arrestati due esponenti del clan Emanuello a Caltanissetta. Da qui appunto è emerso che si stavano preparando questi attentati. Tra l'altro non è la prima volta che il sindaco Crocetta subisce delle minacce, che si scopre che appunto era obiettivo della mafia. Lo hai intervistato tu poco fa, Simone. Sentiamo quindi che cosa ha dichiarato Rosario Crocetta. Questa volta la differenza è che li arrestano, e quindi è un segnale sicuramente molto più positivo e di forza delle istituzioni. Se Cosa Nostra ha deciso di eliminarmi, ovviamente non facilmente non rinuncerà a questo piano, per cui io so che la mia vita non è che oggi è più sicura di ieri. So che è sempre aperta una questione. Queste situazioni per me non diventano elementi di paura, invece diventano elementi per dire che dobbiamo fare di più, che dobbiamo fare tutti molto di più. A volte io penso quanto sia drammatico il fatto che io in questi anni abbia tolto l'appalti alle ditte mafiose e poi magari scopro che queste ditte continuano a lavorare dappertutto, continuano a lavorare in Sicilia, continuano a lavorare nel nord del paese, perché non si tiene conto veramente, perché sembra che questo paese la questione della mafia venga quasi una questione quasi rimossa, e invece lì drammaticamente presente a limitare la libertà di migliaia, di milioni di persone. Quando in Sicilia a pagare il pizzo sono il 70%, significa che questi cittadini non sono liberi, che i siciliani non sono liberi. Sindaco, il fatto che ci fosse nel mirino lei, ma ci fossero nel mirino anche degli imprenditori che hanno deciso di denunciare il racket. Gli imprenditori che ho portato io alla denuncia, a cui sono stato vicino e continuo ad essere vicino proprio per una scelta di coraggio. Ma è chiaro che loro vogliono fare una cosa che da un lato contrasta, diciamo, con chi ha leso e lede continuamente gli interessi, perché è peggio che colpire Cosa Nostra nel portafoglio, ma dall'altro vogliono dare anche una lezione simbolica. Genera è la città che in questi anni si è più ribellata, nella storia della lotta alla mafia non si ha in Sicilia un'esperienza così forte come quella di Gela, centinaia di imprenditori che denunciano. Se hanno pensato di colpire lei e questi imprenditori, vuol dire probabilmente che tra le altre cose gli fate anche paura. Perché il modello Gela ha contaminato e sta contaminando. Io vedo tante amministrazioni che si ispirano ai nostri bandi di gara, cercano di sapere. Vedo tanti consigli comunali che cominciano a prendere posizione a difesa degli imprenditori che combattono il pizzo. Vedo che Gela è stata la prima città della Sicilia occidentale che ha costituito dall'Unità d'Italia un'associazione anti-racket. È qui che si vuole colpire per dire che questa rivolta deve essere fermata. Ma noi non molliamo. Cioè, se i mafiosi pensano di poter indurci, chissà, alla prudenza, si sbagliano, perché per me questi sono atti che mi dicono abbiamo individuato la via giusta e dobbiamo andare più avanti, più con maggiore intensità. Però io voglio fare un appello, non lasciateci soli, perché è evidente che si diventa obiettivi perché si è soli. E io a volte penso che questa politica così disattenta, anzi gliela posso dire una cosa proprio forte, forte, a volte ho più paura della politica che non della mafia. Perché la mafia la conosco, so che le deve fare, invece dalla politica a volte mi arrivano insidie spaventose. Io sono stato rieletto nel 2007 con il 65% dei consensi, con la mia coalizione che prendeva il 40%, quindi significa che c'è stato una parte di persone molto importanti, anche se si riferiva a un'altra area politica, che hanno voluto premiare la scelta di campo di una persona. Però poi il Consiglio Comunale aveva tentato di sfiduciarmi, cioè mentre si metteva in campo la più grande rivolta contro la mafia avvenuta nella storia siciliana, io dovevo avere paura della politica. E allora è questo che non può andare bene, è questo che poi dà forza alle mafie. E questo era Rosario Crocetta, sindaco di Gela, nei confronti del quale i boss mafiosi stavano organizzando un attentato. E noi continuiamo a parlare di criminalità organizzata, o meglio del rischio criminalità organizzata, spostandoci all'Aquila. Stamattina incontro del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso con il procuratore della città Alfredo Rossini. Si parla naturalmente del piano per evitare infiltrazioni mafiose nella fase della ricostruzione post-terremoto. In diretta dal capoluogo abruzzese, Marcello Ianni. Sì, buongiorno, è arrivato poco fa il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, una visita al procuratore Rossini per i primi contatti sulle questioni aperte dal terremoto. La direzione nazionale antimafia si occuperà di seguire la fase della ricostruzione per contrastare eventuali strategie di infiltrazioni mafiose. L'attenzione sarà incentrata sulle aziende locali che potrebbero essere avvicinate da organizzazioni mafiose. Un'altra attività importante, ha detto Grasso, sarà quella svolta dal comitato di controllo per le grandi opere, operativo presso il Ministero dell'Interno, che si preoccupa e occupa di evitare possibili infiltrazioni mafiose sugli appalti. Sempre stamattina in procura è arrivato il magistrato Olga Capasso, uno dei quattro componenti del pool antimafia nominati dallo stesso Grasso. Sono qui in visita di cortesia, ha detto il magistrato. Gli altri tre magistrati del pool sono Alberto Cisterna, Vincenzo Magri e Gianfranco Donadio. Sull'inchiesta il procuratore Rossini ha detto che non ci sarà nessun maxi processo. Ascoltiamolo. Non è che si poteva fare un solo processo in aula per tutti gli indagati, le persone. Poi dopo ogni palazzo grande che è caduto, persone morte, potremo fare dei processi separati in maniera che si faranno in maniera più agevole. Grazie a Marcello Ianni dall'Aquila per questi aggiornamenti. Noi continuiamo a parlare di cronaca con il caso di un suicidio a Ferentino, nel Frusinate. Erano da poco trascorse le 10, al liceo classico Martino Filetico di Ferentino, in provincia di Frosinone, scorreva una tranquilla giornata di lezioni. Improvvisamente FM, 15 anni, studente della quarta ginnasio, tra la sorpresa di compagni e professore intento a tenere la sua lezione, è salito sul banco e si è lanciato dalla finestra. Inutili tentativi di rianimare lo studente da parte del personale del 118, giunto sul posto anche con un elicottero. Tutta la città è sgomenta davanti al gesto di un ragazzo molto conosciuto. Suo padre è l'allenatore della seguitissima squadra di basket e il fratello frequenta lo stesso liceo. I compagni, sorpresi dalla repentinità del gesto, non sono riusciti a fermarlo. Simone Fattori, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Frosinone. Giulia Crivelli per il consueto appuntamento con la rassegna stampa internazionale. Partiamo dall'Economist. Una copertina quasi, una bellissima illustrazione, molto d'effetto, c'è un pesce con le fauci spalancate, dei denti molto affilati, che ha una piccola lampadina, e questa è la piccola lampadina che attrae dei pesciolini molto più piccoli. Il senso e la domanda che si pone l'Economist è una piccola luce di speranza, però con un bel punto interrogativo. Nell'editoriale, insolitamente lungo per l'Economist, quasi 3 pagine, si spiega come alla vigilia della prossima riunione a Washington di tutti i ministri delle finanze e dell'economia, il vero rischio da evitare in questo momento è che per un eccesso di ottimismo, una voglia di assolutamente guardare a tutti i costi piccoli segnali positivi di cui ha parlato persino Obama, così dando il via poi a una serie di altri interventi, ci si scordi che in realtà si è soltanto iniziato a risolvere la crisi e che l'impegno che c'è stato fino adesso, la concentrazione, deve continuare a esserci così, perché sennò, secondo l'Economist, che è un po' quasi catastrofista in questo, ha dei toni insolitamente cupi, i problemi potrebbero essere ancora peggiori di quello che si credeva, e addio ripresa nel 2010. Oh Giulia, un altro tema che è all'attenzione non solamente del governo inglese in realtà, ma un po' di tutto il mondo, in particolare dell'Italia, il gap salariale fra uomini e donne. Scopriamo appunto, a volte ci viene forse presentato, forse anche colpa nostra di noi giornalisti, come se fosse un problema esclusivamente italiano. Forse in Italia è più grave che altrove, però esiste anche negli altri paesi, lo abbiamo sentito anche proprio durante la campagna elettorale anche americana, dove c'è stata quella famosa presa di posizione di una donna che ha fatto della sua battaglia questa, la parità salariale, ma in Gran Bretagna è lo stesso. Il Times oggi annuncia che il governo di Gordon Brown, in gravissima crisi di popolarità, tra parentesi, quindi forse ha deciso anche così di lanciare un po' un segnale all'elettorato femminile, ha deciso che per legge si cercherà di colmare questo gap, che naturalmente è molto difficile da individuare, perché qualsiasi stipendio che non faccia parte dell'equivalente dei contratti nazionali, in teoria può deciderlo l'azienda, dicendo che non c'entra nulla il sesso, ma che viene scelto in base ad altri criteri. Quindi è una materia di quelle appunto dove è facile magari pensare di poter dare delle regole, molto più difficile applicarle. Giulia, tra l'altro la crisi economica sta avendo forti effetti sulla politica, per esempio in Islanda. Sì, l'Islanda, ricordiamo tutti, no? Fino a un anno fa ci veniva dipinta, e per certi versi probabilmente lo era e lo è ancora, come un paese con grandissimi vantaggi, servizi sociali, welfare, pur essendo un paese con un governo di centrodestra da tantissimi anni. Poi c'è stato anche lì la crisi dei mutui, il credit crunch, speculazioni finanziarie, persone che si erano indebitate fino al collo pensando che questa cosa potesse andare avanti all'infinito, e il governo islandese ha di fatto dichiarato bancarotta, è intervenuto il fondo monetario. Adesso che si vota, dice il Wall Street Journal in prima pagina, è forse uno dei pochi paesi dove la sinistra ha veramente delle ottime possibilità, è data vincente la coalizione di centrosinistra. È un po' naturale, no? Nel senso che quando c'è una grande crisi, di nuovo guardiamo l'esempio americano, si sceglie di fare un cambio drastico perché si è estremamente delusi da quello che è successo, però è comunque un segnale importante in un'Europa dove tutta la sinistra è in difficoltà, e in Islanda probabilmente vincerà. Grazie Giulia Crivelli anche per oggi, ci risentiamo lunedì, diamo lo spazio adesso al Salone Internazionale del Mobile a Milano fino a lunedì. Decolla il Salone del Mobile e decolla in parallelo la Nightlife milanese, animata dagli eventi del fuorisalone che ogni anno di più calamitano l'attenzione del mondo del design internazionale. Zona nevralgica degli happening mondani e dei dopocena d'autore, via Tortona che si veste di creatività ed ospita le proposte di tendenza. That's Design è un appuntamento ormai consolidato con le scuole internazionali di design e i designer indipendenti, ma non mancano neanche le esposizioni interattive come Surfacing Material Innovation, dedicata a materiali e superfici. Il Sole 24 Ore propone invece questa sera un evento dal titolo Fuori dal Coro, in occasione del numero speciale della Magazine 24, in edicola oggi, curato da un guest editor d'eccezione, il fashion designer Antonio Marras. Lara Vecchio, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:46 minuti, 15 secondi, parliamo, come si diceva, del 25 aprile. Domani è anniversario della liberazione dal nazifascismo. Facciamo allora il punto sulle celebrazioni, iniziare dalle ultime parole pronunciate questa mattina da Napolitano. Paola Cavadi. Gli ideali della resistenza sono gli stessi che ispirarono l'Italia, che ispirano l'Italia di oggi. Per questo in quell'esperienza si possono riconoscere tutti. Lo ha detto stamattina il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, tornando a parlare di resistenza in vista delle celebrazioni del 25 aprile. Il Capo dello Stato ha celebrato la ricorrenza in Quirinale insieme al Ministro dell'Interno Maroni e a quello della Difesa La Russa. Per Maroni il 25 aprile resta una data incancellabile, mentre il Ministro La Russa, mettendo fine alle polemiche degli ultimi giorni, la definisce una ricorrenza condivisa. I valori della lotta di liberazione e la volontà di costruire un futuro migliore, ha detto ancora Napolitano, ispirano anche l'opera dei nostri militari impegnati nelle missioni all'estero. Un impegno, quello dei nostri soldati, che per il Capo dello Stato è necessario rendere ancora più efficace, nonostante le difficoltà della crisi economica e i tagli al settore della difesa. Ma veniamo adesso alle celebrazioni previste per domani. In mattinata, all'Altare della Patria a Roma, il Presidente Napolitano deporrà una corona di fiori prima di recarsi a Mignano Montelungo in provincia di Caserta, dove sono sepolti i soldati italiani che combatterono a fianco degli alleati a Monte Cassino. Per la prima volta anche Berlusconi festeggerà il 25 aprile, anche se non si conosce nel dettaglio il suo programma. Dovrebbe prima recarsi all'Altare della Patria a Roma e poi andare a rendere omaggio ai partigiani caduti a Onna, il paesino in provincia dell'Aquila totalmente devastato dal sisma. E a Onna ci sarà certamente il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini, che negli ultimi giorni ha incalzato il Premier proprio sui festeggiamenti del 25 aprile. Franceschini raggiungerà poi il corteo nazionale di Milano. E da Roma è tutto. E grazie Paola Cavadi per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo in Iraq, dove è salito a 60 morti il bilancio dell'attentato al mausoleo sciita dell'imam al-Qadum nel quartiere al-Qadunia di Baghdad. I feriti sono 125, tra le vittime ci sono 20 pellegrini iraniani, 80 sono stati feriti, ha riferito un responsabile del Ministero della Difesa. Noi ora restiamo in Iraq per raccontarvi un'altra storia. E ce la racconta di Beffateli. Ci sono storie di ordinaria ingiustizia che avvengono ogni giorno in Iraq, ma questa, riportata oggi da Sharqlaw, merita davvero di essere raccontata. È la storia di una detenuta rimasta incinta nel carcere di Stato nella città di Tikrit. La ragazza chiama il fratello per chiedere aiuto. Il tizio arriva in cella e appena guarda la pancia non ci vede più e prima ancora di ascoltarla estrae la pistola e la spara in testa, uccidendola sul colpo. I carcerieri sembrano sollevati. All'orbitorio, un impiegato scrupoloso e desideroso di sperimentare nuovo laboratorio arrivato dall'Europa decide di fare l'analisi del DNA al feto e a quelli che lavorano nel carcere. Viene fuori che a stuprare la donna è stato il direttore del carcere. Arrestato assieme ad altri due, il direttore ottiene la libertà perché appiana il tutto pagando una somma alla tribù della vittima. Storia di ordinaria tragedia che racconta come vengono tutelate le donne in Iraq, dove decapitare la moglie costa meno che divorziare, come denuncia l'attivista Donna per i Diritti Umani. L'Associazione in difesa dei consumatori e cittadinanza attiva ha premiato questa mattina 3 scuole che si sono impegnate per rendere più sicure le loro strutture, promuovendo la cultura dell'ambiente e della salute. Premio giunto alla terza edizione, intitolato quest'anno a Vito Scafidi, il ragazzo morto nel crollo della scuola di Rivoli. In diretta da Roma, Paola Nania. Paola. Sì, buongiorno. Esempi virtuosi di buone pratiche, quelli premiati questa mattina da Cittadinanza Attiva qui a Roma, progetti per esempio per monitorare l'inquinamento elettromagnetico, lezioni per rendere più sicure le aule. Proprio la sicurezza dopo gli episodi dell'Aquila, il crollo della casa dello studente dovuto al terremoto, la sicurezza, dicevamo, è stata centrale nella cerimonia di questa mattina. Sentiamo cosa ci ha detto Teresa Petrangolini di Cittadinanza Attiva. C'è da dire che la metà delle scuole italiane non sono sicure, cioè non sono ancora certificate, hanno delle situazioni di fatiscenza. Quello che fa impressione è che di fronte a queste problematiche che riguardano milioni e milioni di persone ci se ne accorga solo quando ci sono le tragedie. Presenti anche i genitori di Vito Scafidi oggi alla cerimonia di premiazione. Vito Scafidi è il ragazzo morto nel crollo della scuola di Rivoli. Presente anche Antonio Morelli dell'associazione Vittime della scuola di San Giuliano 7 anni fa. Sentiamo Morelli, poi linea allo studio. Non si può accettare che un singolo cittadino, un'associazione sostituisca lo Stato. Sono le istituzioni che dovrebbero, anzi hanno l'obbligo. Perché voglio ricordare che i nostri figli sono morti in una scuola dell'obbligo, in una scuola pubblica, in una scuola elementare. Ringraziamo Paola Anania per questo collegamento. Adesso facciamo un breve riepilogo delle notizie della giornata. Il trasferimento del G8 di luglio dalla Maddalena all'Aquila in primo piano, dopo il via libera inglese e la cautela americana, l'ok della Germania. Le aziende sarde chiedono si completino comunque le opere previste. E un altro G8, quello delle imprese a Cagliari. Il presidente di Confindustria Marcegaglia dice no al protezionismo. Verso il 25 aprile, le celebrazioni di domani, Napolitano dice nella Costituzione italiana c'è l'eredità morale della resistenza. Il dopo terremoto in Abruzzo, un uomo è morto questa mattina mentre demoliva un edificio pericolante. L'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, è tornato a Detroit per tentare di definire l'accordo con la Chrysler. Rimane nel frattempo aperto il fronte Opel. E i boss di Gela stavano preparando un attentato contro il sindaco della città, Rosario Crocetta, e alcuni imprenditori. A XL il primo cittadino ha detto: a volte mi fa più paura la politica che la mafia. Un ragazzo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del liceo. È successo in provincia di Frosinone. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Giacomo Spunta. Come sempre vi ricordiamo che se volete scriverci l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se volete riascoltarci c'è www.radio24.it, dove trovate anche molto altro materiale. Il prossimo giornale radio è alle 15 con il GR Extra Large. Invece ci ritroviamo lunedì alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.